servizio particolare e mi sto letteralmente squagliando, ho bisogno proprio di sfruttare il fine settimana per riposarmi, per cui mi trastullo tra qualche torneo che faccio al computer e qualche questione che faccio con voi, con gli amici in radio. Avanti il break, Salvatore da questa parte. Ciao Salvatore, ben sentito, ben ascoltato da questa parte. Antonio Grode, saluto anche l'altro amico di cui non ho copiato il nome attivo, era solamente, e vi disturbo un attimo per chiamare, per fare una chiamata a Claudio, un attimo, attenzione a Claudio se mi ascolti. Negativo, deve essere già uscito. Tornavo un attimo in ascolto, avanti l'altro amico. Franco, anche se non mi riconosci cosa la voce, Franco, sto bravo. Ciao Antonio. Ciao Fra. Un'altra cosa è cambiata? Un po' la modulazione del microfono, mi sembra. No, ho cambiato direttamente la voce perché ho sempre mal di gola, quindi magari avessi cambiato il microfono, sarebbe semplice ritornare allo stato iniziale, così invece ti tocca prendere, anzi sicuramente andrò incontro all'antibiotico. Allora stamattina ti stavo dando dei controlli, sì, hai ragione. E come mai questa per il tempo che c'è fuori? Sì, sai com'è, tra entrare e uscire da posti caldi, freddi, poi questo tempo che c'è stato. E noi c'è stata un'estate normale. Sì, comunque adesso il microfono è il suo. Tanto che per certi versi è più comodo quello palmare, perché quello da tavolo tendi sempre avvicinati, allontanati. E poi sull'apparato principale. Questo invece è l'apparato di uso comune da battaglia. Certo, stai riuscendo comunque da questa parte almeno con un Santiago di 9, una radio di 5 pulita, non amplificata, però è la classica radio che piacevole, che non dà fastidio, quindi va più che bene così assolutamente. Sì, no, la radio è regolata proprio per non disturbare, perché preferisco diciamo una radio normale che una radio che poi dia fastidio, perché poi è anche difficile ascoltare, tra l'altro. Tutto lì. Avanti Salvatore. Grazie. Antonio, guarda che Claudio poco fa si stava chiamando. E capo, appunto, gli volevo dire che molto probabilmente non ce la facevo, ma ti sento leggermente spostato di frequenza, è possibile un attimo, che lo sono io che soffro di frequenza. È un po', fammi vedere, c'è un ritmo manuale. No, guarda un po'. Dai, se mi fai un passaggio, esco dalla memorizzazione per un attimino se sei. Allora. Prova, aspetta. Che stai combinando? Un attimo, fai un passaggio adesso, che voglio vedere se riesco a centrarti, fai un passaggio lunghettino. Vuoi fare un passaggio? Allora, vieni avanti. Guarda un po', prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4. Vieni avanti di nuovo. Ma sei passato in FM, che non ti sento. È leggermente spostato, mi sembri sui 27.072. Sei passato in FM, adesso sono passato anche io in FM. Tu sei cattivo, io sono in AM. Ah ecco, no, scusa, allora ripasso in AM. Parsi che sia, siccome stavo giocherellando col trimmer i giorni scorsi del potenziometro dei watt, forse riportandolo così un po' più basso esco un po' meglio. Ieri, come veni avanti adesso? Adesso sono proprio con 5 watt, giusti. 1, 2, 3. Tu oscilli tra, mi sembra che sia leggermente fuori frequenza, cioè ti vedo sui 27.072, scusa, Alfa Bravo, se un attimino stiamo guardando la cosa, tu come lo senti? Vieni avanti nuovo. No, lo stavo controllando anch'io, ma mi sembra normale. Tu hai la possibilità di andare in frequenza, cioè di andare a frequenza un po' continua? Sì, io posso fare tutto praticamente. Lo stavo controllando ma non noto differenza. 27.072 contornando. A me segna 27.075 di trasmissione. Dove sono io allora, che problemi? Allora. Niente, dai. Tutto bene per il resto? Hola! Cavolo, mentre ero già a punti nel torneo che stavo facendo, va fantoma. Certo, di oggi. Ma devo fare un po' di proseliti. Quindi mi mettetevi nella condizione di venire a trovarci nel sito dell'associazione. E che indirizzo ha? Allora, è una pagina Facebook che la trovate sotto il nome di Associazione Nikola Tesla, Associazione CB, quindi Nikola è scritto con la K, Nikola Tesla Sassari. Ecco. Sì, prego. Carli Papa 2025, chi parla? Carli Papa, mi hai sentito da questa parte anche nel verde. Ecco. Avanti. Buonasera, e beh, tu? Ciao Rosario, tutto bene? Ciao Rosario, Danielino, tutto bene? Ehi, tutto a posto, e tu? Anzi, e voi? Va bene, sei in compagnia di Charlie Bravo, se non sbaglio, di Salvatore e poi dell'altro amico che è appena entrato, di quello che ho copiato bene il nome della civilizzazione. Avanti, l'altro amico. Brecco. Ciao ragazzi, sono uno studente di neurologia. Non so se avete visto ultimamente quell'esperimento che hanno fatto a Sassari nella sezione di quella testa. Una testa che ti faccia una sezione a te, insieme a te anche a quella persona che ti mette nella condizione di fare queste cose. Antonio. Sei caparoglio, scherzo l'amico, dai. Avanti. Ascolta, ma invece di una pagina Facebook, un link su un sito internet direttamente? Assolutamente sì, infatti ci affideremo, perché stiamo facendo progetti, per mettermi nella condizione di affidarmi a un professionista come te. Il problema è che siamo in fase di registrazione, lunedì stesso sarà ufficializzata la cosa, quindi al più presto non mancheranno se certamente quegli spiccioli per la registrazione, cioè per avere un sito a tutti gli effetti, poi chiaramente ci affideremo a mani più esperte come ad esempio le tue. Senza fare neanche una cosa particolare, ricordati che se tu ti fai una registrazione con una qualsiasi email, che ne so, anche con Tiscali stesso, poi hai la possibilità di avere una pagina, un tuo spazio web da attivare, e intanto si può iniziare con uno spazio web tutto tuo, capito? Dove poter caricare un sito internet. Infatti, sai che non c'è problema, anche perché poi credo che costi abbastanza poco. Prima di comunque ne parleremo assolutamente, è per quello che voglio che ti scriva sulla pagina Facebook. Prima di passare a Danielino, vorrei sentire quell'amicaccio che ha fatto lo scherzo. Avanti. Abbiamo recuperato dei cheesecake qua all'università e sarebbero da sezionare. Ma ci vuole martello e mazzetta, mazzetta e scalpello, oppure si fanno allentare tranquillamente? Ti do 10 minuti per portare il tuo culo in questo appartamento a mangiare i cheesecake. Riprendi Daniele, tutto bene? Basta di questa cosa, mi sa anche troppo, eh. Allora, cioè una potenza devastante, riprendiamo come i vecchi tempi. Aspetta, tu mi devo attenuare, sennò qua a casa ne crepi tutto, hai zitta. Oh, fatto, ti ho attenuato. Cos'è il trano però alla radio? Per non far sentire lui. Aspetta, forse era questo, eh. Forse era questo, vediamo quanti abbiamo con la mia. Guarda un po', 1, 2, 3. Aspetta, questa cosa, aspetta. C'è ragione. Oh, guarda adesso un tocco, eh. Non mi state facendo uscire di testa. Aspetta un attimino, non so, bravo, vieni avanti. No, stavo controllando il sito, ma in effetti su Facebook c'è poco niente praticamente. Tra l'altro con quel nome ci sono anche varie associazioni, il stesso nome. Assolutamente sì, ma infatti ti ripeto, finché non ci mettiamo nella condizione di ufficializzare la cosa, è meglio non uscire, scusando il gioco di parole, la ripetizione, non uscire con l'email ufficiale, cioè con il sito ufficiale, assolutamente. Allora ti sarei grato se te ne, cioè, non potessi occupare, ma quantomeno se ne dissi delle cose, delle dritte buone, dai. Ti sento molto male adesso, non so cosa è toccato, sento una specie di fischio di coso sotto, di gruppo elettrogeno. Il, come si dice, il trasformatore. Sta facendo brutti scherzi, aspetta un attimo. Se l'hai visto, Salvato? No, negativo, io non mi sono registrato su Facebook e non ho intenzione di registrarti. No, se per quello neanche io l'ho visto da fuori, infatti ogni tanto c'è la registrazione, vedo che non ci posso mai. Una cosa diciamo da ragazzina. Cazzo, no, poi soprattutto la cosa balorda della maggior parte dei social network, tra cui comunque se Facebook oppure dei blogger tipo Twitter e quant'altro, è che poi una volta che tu metti i tuoi dati o che possono esserci anche delle foto o quant'altro, poi praticamente non verranno mai più cancellati, capito? Perché già il solo fatto che quando tu chiedi la chiusura e successivamente vai a verificare se è chiuso, automaticamente viene rinnovato dal sistema il tuo accesso ai tuoi dati, per cui praticamente è una cosa infinita. E io, proprio perché ci lavoro su queste cose, l'ultima cosa che farò nella mia vita è di registrarmi in un social network. Hai perfettamente ragione. Sì, è strano, c'è l'alimentatore che sta facendo strane cose, mi stanno dando dei picchi sull'amperaggio strani, da vedere, dai. È vero quello che stai dicendo, l'ho sentito anch'io, assolutamente. Perché purtroppo è anche un discorso che è proprio, siccome il sistema è congegnato in un grandissimo mega database clustering, viene anche male al sistema stesso riuscire a mappare pulendoli tutte quante quelle che sono le risorse messe a disposizione e viste però come una unica immensa grande unità logica, per cui sinceramente sapendo come funziona manco per idea farvi mai una cosa del genere. E poi, cosa ne pensi tu? Sai che tu ti sei appena iscritto? No, non riesco a capire questa cosa. C'è qualche problema, portante mutato nessuno, andate in controllo. Per me è pulita. Tante a il local chiuso mi dà un Santiago di 7. Pulito senza neanche un rumore sottofondo arrivi qua. Bene, fai un passaggio, vieni avanti. Sono rientrato, chi c'è? Qua appunto ti stavo entrando per chiederti, che non sarei potuto venire. È un po' di cose strane la radio, nel senso che l'ancoraggio dell'alimentatore sta andando e venendo, non so per quale motivo. E fra l'altro la luce della radio mi si sta abbassando leggermente, non vorrei avere qualche problema. No, beh, 140 la volta che prende 4 devi abbassare la potenza. Abbassa leggermente la potenza tu. Questo è Daniele, Questo chi è Daniele? Cosa vuole che succede, Daniele? Ma è una FM, sì. Siamo vicini FM, cos'è toccato? Tocca sotto, spegnila e riaccendila la radio, sotto tocca la leva in-out dell'MC60, Daniele. Dove la leva? Mi devo la faccio anch'io qua. No, tu vai benissimo, devi abbassare solo leggermente la potenza tu, abbassa leggermente il power. vedi che non, te lo, non si abbassa la luce del, dell'elemento attorno. Ma il problema è che va avanti e indietro la lancetta degli ampere, dell'amperaggio, capito? Quello deve andare avanti e indietro, sono i picchi di modulazione, mica gli ampere rimangono fermi. L'importante è non fare il voltaggio, ma quanto lo stai alimentando? No, quello è a 13,8, quel puntino rosso che c'è fra il 10 e il 15, dai. Va bene, e gli ampere devono cambellare, perché gli ampere rimangono fermi. Gli ampere, quando tu parli, lui ti segna quanti ampere ti sta dando al picco massimo di modulazione, è normale. E comunque mi stavi dicendo, dove è questa regoletta che c'è, che non ho mai visto, ma giusto per conoscere meglio l'apparato? Dove c'è scritto power, in alto, il primo slider che c'hai, quelli sono i watt. A quanto ce l'hai, leggermente lo tocchi col dittino, a andare indietro. E adesso è quasi spento. Però ti stavo dicendo, tanto quello che mi segna, aspetta, lo metto un attimino un po' più. No, ti stavo dicendo quello che hai detto a Daniele. Quello che hai detto adesso sta andando bene. Quindi anche quando lo modulavo a 40 minuti stava solo descendendo l'amperaggio. E la maledetta che hai detto a Daniele per resettare. Resettare? No, resettarlo non c'è bisogno, Daniele. Spegni e accendilo di nuovo. La leva sotto che hai, in, out, muove avanti e indietro, la leva dell'MC60, la levetta. Non sei combinato, sta andando bene ieri. Non è che ha toccato la levetta che c'è sopra il microfono. Metti il microfono normale. Si è abbassato adesso, non te lo fa più, non ti si abbassa l'alimentazione. Aspetta un attimino. No, prima sai cosa faceva, proprio pompava senza, a 40 minuti saliva e scendeva senza nessun motivo. Ma sei tranquillo. Aspetta che alzo, provo ad alzare un attimo. Adesso non sta più facendo. Cioè, è tutta manetta, è tutta canna, guarda così, così è tutta canna proprio, ora. No, troppo alto, vedilo com'è l'anzio, troppo alto, non distorci mai troppo alto, no, fallo riposare un po' il finale, ti stava andando in protezione quasi, il 140, prova il 140, che più scalda e più si allinea, una volta che si allinea poi, secondo come tu parli, fai passaggi lunghi, ti va in protezione, capito? Quindi ti conviene tenerlo leggermente più basso, sui 30-40 watt di portante, 20 watt di portante, poi il resto già lo fa lui. Grande atto di maleducazione, siamo noi nei confronti di Salvatore e di Alto Bravo. Un attimino, un passaggio per Daniele e direi di ripassare il microfono a loro. Io non sapevo che c'era anche Salvatore, perdonatemi, ma io ti ho lasciato qua a te e sono entrato subito, sono andato a Piazza dei Sini. Salvatore, la più cordiale buonasera da Claudio Sparviero, avanti. Ciao carissimo, buona serata. Figuratevi, non ci sono problemi. Tanto nel frattempo si ascolta. si ascolta. Mi fa ridere, ma sai che cosa, Claudio? Una cosa, che quando tu molli il tasto del microfono, si sente un clac-clac ogni volta prima di interrompere la portante. Sì, è lock, io uso molto il lock, non uso il PTT, uso il lock, praticamente non tocco il microfono, lo inserisco e poi lo disinserisco, adesso l'ho inserito, si è disinserito. È il lock del PTT praticamente, dai, quello che non si tiene il dito, mi, anziché tenere il dito, senza tenere il dito, dito o non dito. Ho capito, sembra uno che ti applaude come ci dici di parlare. Ah, c'è uno che mi applaude quando finisco di parlare. Ah, ci picchia, fatemelo ascoltare anche a me. Bestia, sai uno che c'hai a fianco? Che come tu molli, il pulsante fa un applauso, picchia con le mani. Ma aspetta un attimo, sono così in avanti. Sì. Oh, scusate. Come sto andando? è accettabile, dai, è proprio un pelino, è a 27.85, ciao Gianfra, è 0.05, ma è un pelino proprio, è un pelino, no, no, non glielo fare toccare con la radio, per carità, perché già ha fatto un esperimento ad uscire così bene, e lasciamolo così, dai, io lo ascolto bene, dico che lo ascolto bene, potrebbe andare meglio, ma lo ascolto bene. Tu invece con quella modifica, quella radio, mi si fa scendere a Lecci, vedi, adesso te lo dico io. Purtroppo me l'hai detto tu con la RAI 48, è favolosa quella radio, favolosa, spinge che è una belletta. Lo sai che pensavo invece di modificarla e mettergli la capsula del Sirio, però se mi dici che è così, mi fido ciecamente, lascio tutto, incollo tutto e lascio così. Antonio, dai retta Claudio Spaviero, come facciamo al computer, copia e incolla, non tocca nulla perché c'hai una modulazione, guarda, c'è Gianfranco, ci sono gli altri, non vorrei che solo il mio parere per voi sia sempre favorevole, quando sbaglio voglio che mi dite, Cla, non me ne affronti nulla, a me non piace la cambio, però per me è molto bella. Poi rilanciamo Daniele e vediamo se ha fatto qualcosa. Gianfranco, buonasera, Claudio Spaviero, qua in compagnia di Salvatore, Antonio Grode, poi c'è anche Daniele. Mi sembra che ha un problema al microfono. Come lo senti tu, Antonio Grode? Dai la tua impressione techno system. Ciao Claudio, no, c'è la parola prima, stavamo parlando anche con Salvatore. Infatti io dicevo che Salvatore per me era abbastanza centrato, considerato che usa un baracchino. Antonio invece io qua non lo sento bene rispetto ad altre volte, continuo a sentire questa ventola sotto, questo rumore che le rovina la radio. Quello gli ho detto, devi abbassare leggermente, tanto perché sei una potenza, ti porti appresso la ventola. Sì, un po', mettilo come ce l'ho io, il Mickey Gain, non lo mettere tutto sotto la C, lo slider del Mickey Gain, dove c'è il Mickey, non lo mettere tutto sotto la C, tienilo, non lo so, metta, come ce l'hai, facci capire. Mi viene per il ciccio, comunque, ce l'ho a pompa, tutta a canna, mentre invece il Mickey Gain del microfono è su 7.5, proviamo ad abbassare un attimino. Passando adesso in prossimità della C, prossimità della I, dovrebbe andare bene così, dai. È che la ventola si è accesa dell'alimentatore e non riesco a metterla abbastanza lontano, comunque dovrebbe essere, dai, dovrebbe essere accettabile adesso. Sì, vabbè, no, ma va bene anche prima, a me non danno fastidio queste ventole, voci rimbombanti, ci sono abituato, quindi non è un problema, è che effettivamente, come ha detto Gianfranco, ti porti appresso molto il rumore della ventola, invece così è più attenuato. Io lo tengo, ad esempio, torna anche io con 140, MC60, tu rispetto all'MC60 c'hai, però, guarda, adesso si è inserita la ventola. Non si sente la mia, si sente più il televisore. Leggermente, a portata muta, si sente leggermente. Poi ti stavo dicendo, era vedi un casino da canale 45 prima, c'era Massimiliano che era, sembrava stesse facendo la pubblicità per una farmacia, perché proprio per vendere cose, come si dice, antinfiammatori per il mal di testa, era una radio devastante. Quelli si chiamano, guarda, sono sotto casa tua, ti metto Claudia Fia, hai visto come ha regolato la mia, come ha cambiato, quelle sono per modulare nel 45 per fare radio baccano, capito? È così, quelle sono nate per distruggere, quelle se ti metti nei canali, nei 10 canali vicino, puoi essere anche a 10 km, stai tranquillo che il colpo ti prende lo stesso, sono radio da combattimento. No, ma io la dovevo regolare per forza, perché anche stamattina siamo visti, sentiti e mi ha detto bisogna regolare. No, adesso sono sotto casa tua. Sotto qua nuovamente supera le 10. Va bene, vediamo se Daniele, con le scuse di Salvatore Gianfranco, ha rimediato. Daniele. Scusate, però adesso sono sotto casa tua per il Fulvio, scusate. Ho capito, mi stai facendo la Lecci. Scusate gli amici, comunque, QRT per me, o meglio, riprendo da altra postazione. Sto scendendo, dai. Riprendi Daniele. Sì, scusate, adesso sono sotto casa tua. Daniele, ma lo sei gommeato, non stai uscendo in radio. Microfono normale, ce l'hai di quella radio, metti il microfono normale. Questo, intanto, Lorenzo? Adesso sì. Adesso stai andando. Ma lei tra il micro. Ma guarda, è tutto a fondo. Allora, guarda adesso. Daniele, se tu quella radio la usi, fa la fine di quella mia, che l'ho dovuta tutta smontare il frontalino e pulire con lo sgrassante. Lo slider del Mickey Gay, mandalo avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, puliscilo così. Pulisci lo slider del Mickey Gay e rimetti le MC60. Infatti è un falso contatto, si sente che è un falso contatto. Puliscilo leggermente, vedrai che è a bomba. Poi ai ai, e sempre continuerò a ripetere, queste radio non vogliono mai lasciarti così in fase di abbandono, mai, poi mai, bisogna accendere tutti i giorni, farci un passaggio, muovere potenziometri, muovere gli slider, fare prova, retina, molla, fischia e poi lo rimetti a posto, però mai lasciarlo. Daniele ce l'ha un anno, forse anche di più, è spento, è chiaro che la polvere va a finire nello slider, si inchioda, non ti dà quell'impulso che deve dare. Puliscilo e riattacca le MC60, ma fallo andare avanti e indietro, avanti e indietro, e poi lo rimetti nella posizione che ce l'avevi prima, attacca le MC60 in posizione in, non out, in. Dopo vi lascio io, ciao ciao. Ciao, Anto, ci sentiamo dopo allora, eh. Avanti Gianfra, poi rilancia per Salvatore. Chi è avanti? Non bere la birra, ti fa male, sei malato. È una cosa tristissima però, perché non riesco a capire io queste cose. Vabbè. E basta ignorare, è una battutina, si può anche fare. Non bere la birra perché vedi che le fa male. Quindi, meglio che non la beva. Poi si gira la testa e si fa male, cade a testa a terra, vero se lo per... sì, parole sante. E beh, oggi la reperibilità come ti è andata? Ti hanno scocciato? Guarda, una chiamata solo, ma poco movimento. Stamattina ero procinto a rientrare nel rettilineo di nello schermetto veloce, Tempio Sassi, arriva la telefonata, sono dovuto scendere a Porto Torres. Che poi un po' dottore, ho dovuto fare un salto attentino, ma niente di particolare. Tutto a posto, c'è già finita, ho terminato alle 6 da sera, la reperibilità, sono già alle 8.20, quindi ho già spento il telefono in servizio, il mio è acceso e ci risentiamo domani mattina con tutti i rompimenti di scatto. Se cappa, penso proprio di sì. Mamma mia, ogni volta che parliamo di reperibilità da noi dobbiamo riorganizzare l'accordo aziendale a gennaio. Non lo sai, ce l'abbiamo anche io questo accordo. Ti posso dire, Salvatore, che non l'hanno mai rispettato, perché io ho un minimo, da un minimo a un massimo, quindi fino a una determinata ora posso anche dire no, non c'è niente. Invece mi hanno imposto di prendere i piedi e andare. Senza nessuna regola, capito? Come che sia un quacquara qua messo lì intanto per... vabbè, non capisco comunque. Si faranno capire prima o poi, no? Quando vedranno veramente che i colpi sono già arrivati, si faranno capire bene. Già oggi l'articolo del giornale parla di Tintino, il sindaco si è già rotto le scarpe. Adesso speriamo che si rompa anche il sindaco di Sassari, così vediamo. Cappa, ma d'altronde è una situazione comunque bruttissima, portata all'esasperazione, portata al collasso, i principali attori se ne devono prendere la responsabilità, c'è poco da fare, sono poi troppe le ricadute, troppe. Comunque, non tediamo a Gianfranco. Dimmi se hai qualche disturbo. Gianfranco? Sì, l'ho distratto. Sentivo sotto questi qua, pensavo adesso sto parlando qualcuno. Invece non è così. Ok, vabbè. Tutto lì. Mi era rimasto qui, c'è il Salvatore. Cosa avevamo tarato? Ho aperto il conto. Daniele? Daniele che sembra che abbia finalmente sistemato il microfono. No, facciamo bene, avanti Daniele. Eia, guarda un po' adesso se si è ripreso. È tornato a vivere, resuscitato rispetto a prima. Ha avuto un attimo di smarrimento allora. Andale, riprendi qua. Oh, vedi, adesso ti sembra lezione, Non credere, Daniele, si riempie di polvere, si mette qualche impurità all'interno, sai come funziona quello di credere, no? E non ti dà più l'impulso, che quello proprio eccita quel trimerino che poi avevamo regolato sopra e da lì parte eccita l'ingresso del relè per la LC. E se quello non funziona è sporco. Adesso stai andando magnificamente bene come sempre, beh. Cava, ascolta una cosa qua. Perché quando lo metto nel 10 memorizzato se ne va in sposta di frequenza poi? Qualche cosa importante? Ti dà lo split, vero? Ehi, acca, non riesco a eliminarglielo. Lo devi fare. Perché? Praticamente il 140 c'ha dall'1 al 9 canali normali, poi dal 10 al 20 si inserisce lo split. Per eliminare lo split, Daniele, devi tenere premuto il VFO dove c'è scritto A uguale A, no? Il pomello praticamente. Aspetta che accendo la luce, che ho i faretti che mi stanno cercando. Ecco qua, dove c'è scritto A barra A, tu tieni premuto quello, no, scusa, barra sotto A uguale B, tieni premuto quello con lo split, tutti e due premuti assieme, praticamente slitta lo split perché ti sta dando il doppio VFO in coppia e le dai la memoria e vedi che no, il VFO, cioè ti segna sempre split però non ti si sposta, prova. Vai. Ci sei? Ecco l'altra motopompa, ci siamo. Tutti buon pendio, le ventole, tutti a manetta. Eia, poi, mi senti? E già lo dico che ti sento, la grande, è bene pure. Oia, va bene, dai, ho caricato un po' il filo. Guarda che, Sandro, mi stai disturbando il tuo l'acqua calda, Ma come non ti ha intagliato un gomodo? quello no. Ai, Monelli siete, tutti a pompa, hai visto Sabato? Ah, come si svegliano i modulatori sardi quando li spremi, che li ci riescono male, hai visto come mettono le radioserie? Senti a Giampaolo Consano, la Protose, segnaloni, radio belle, senti. Claudio, adesso sono col filo, con 7. 757 il filo, e la matta che te ne varia. Vabbè, l'ho caricato un po', vai. L'hai messo anche tu la pompa dell'acqua? Daniele, è andata l'operazione? Risolto, e non ricordavo più come dovevo fare. Tu chiedi al Giorgio 140. Quando, perché? E praticamente se tu non schiacci VFOA uguale B, l'ultimo che c'è sotto, e tieni lo split inserito, dal 10 in poi fino al 19, lo split inserito, quindi quando schiacci se ne va in split. Allora, per eliminarlo devi tenere calcato A uguale B e lo split, e poi dai la memoria, fino a superare il canale 19. Poi una volta che hai superato il canale 19 non c'è più bisogno perché lo split sparisce automaticamente. Infatti ce l'hai sul display scritto split, però non interviene. No, non sta intervenendo. È acceso sì, però è stabile al canale del 10, dai. Sì, perché lo disinserisce praticamente perché tu l'hai dato, il VFO A uguale B, quindi hai accoppiato due VFO e lui non si sposta, altrimenti si sposta in automatico. Già eccezione, perché ogni tanto passando da un sistema all'altro bisogna riallineare o meglio risintonizzare. Quindi ero, sono apparentemente distratto. Non c'è problema, andiamo a preoccupare. Sandro, Daniele sta usando altro 140 by Claudio Sparviero, che non mi ricordo neanche quando l'ha preso, non mi ricordo, vabbè, comunque, sempre il 140, con l'MC60. Ho capito, beh. Aspetta un attimino. Ma tu non stai usando il depo, sei Santiago 9 qua col 757, Santiago 9 a picchi positivi, vedi un po' se ti ascolta Salvatore, Salvatore lo senti a San Vapolo Torres? Sì, sì, non stavo guardando a quanto arrivava, se fa un passaggio lo posso fare un controllo, stavo scrivendo una cosa. Vai Sandro. Se non vuoi innescare la M908, l'attacca del compressore, non la mettere in alto, tienila a metà. Mamma mia che brutta, riinseriscilo. Ok, adesso è inserito il processore, va bene così. Poi alla grande. C'hai un altro tastino, adesso non me lo ricordo, per non fischiare, io praticamente lo mettevo a zero. Hai un altro tastino a fianco, vicino a quello del compressore. Ce l'hai inserito quello, disinserisci e lascia il compressore com'è. Adesso ho tolto in effetti l'equalizzatore del microfono. Ecco, lascialo stare così, senza equalizzatore col compressore inserito, meglio di così non si può uscire, perché se inserisci compressore ed equalizzatore fischia, come lo usavo io quando me l'hai portato qua. Aspetta, ho provato a sollevare un po' il volume del mic, è troppo? L'equalizzatore non fischia, era quel tastino lì, io non mi ricordavo che fosse dell'equalizzazione. Lascia il compressore inserito senza equalizzatore. Gianfranco, lo senti tu a Sandro? Sì, claro, lo sento. A parte la radio, il segnale va super bene. Senti Gianfranco cosa ti ha detto? No, negativo. Negativo, riesco a considerare che come ricezione qua sono molto basso, eh. Vabbè, Tesla non di polo, Sandro, però sei Santiago 9. Sei Santiago 9 a casa mia, io sono 20 km da te. E ripeto, c'è gente che quel segnale non ce l'ha neanche a Sassari. La radio è favolosa, perché la M908, quello che stai usando tu, che abbiamo provato qua, abbiamo fatto tante prove, col compressore inserito con quella radio, è una favola, va bene. E ti dirò che non è che si allontani molto dall'altro e dall'MC60, perché come chiarezza mi sembra che l'ho fatta, Io sono sincero nelle cose, come chiarezza di modulazione, come spinta no, ma come chiarezza di modulazione, io penso che ci sia un pelino di superiorità in quel microfono rispetto all'MC60, Sandro. Parlo per quanto riguarda la tua voce, non per quanto riguarda la mia, per quanto riguarda la tua voce. Si conferma la grande. Ecco la voce della verità, il falchetto ti ascolta sempre, per me è molto più chiara, non molto più spinta rispetto all'altra, però attenzione che non è malvagia, spinge parecchio, però come chiarezza il 908 per la tua voce, te l'ho sempre detto, è più chiara dell'MC60, questo lo devo dire perché sarei una persona ignobile e falsa se non ti dico la verità. Lo sai benissimo, Clark, che questo dipende tutto da farlo centrare, una volta che lo centri non ha più tempo. No, Sandri, confermo anch'io, guarda, ti fa una voce molto, ma molto più bella rispetto a come ti sentivo io, questa è fenomenale, perché io ti ascolto sempre, già lo sai, Sandro. E niente, ti devo dire che è veramente bella, te la fa veramente bella la modulazione. Che l'hai regolato, lasciala stare così e non la toccare più, no? Il problema è risolto. C'è anche Daniele comunque. Daniele, poi vai per Salvatore. Avanti Daniele. Dai, approfitto e vi saluto. Sentiamo forse dopo e vado a fare un po' di carica, dai. Riprendi Salvatore. Faccio anche copia e incolla io di questo passaggio perché come sono tornate le donne qui a casa si sono proiettate in cucina e stanno giustamente facendo il loro sporco lavoro. Quindi tra poco mi chiama, se mi sentono mi spaccano la testa. Riprendete pure, Claudio. Le donne lo sai che dobbiamo prenderle sulle pinze per tutta la sera e guardare sigaretta in bocca e ogni tanto mi guarda. Beh, fa questo. Una coppia di cartone. Lui, Santa Zoe. Ecco, a proposito, che mi è venuto in mente, mi è successa una cosa particolare in un attacco del PL. La parte bianca che c'è all'interno, che fa da isolante, tende a spostarsi verso in avanti come infilo il cavo dell'antenna. Qualche idea per provare a bloccarla? Ce l'ho fatto, cambialo, non lo mettere mai più bianco, perché quella è plastica e quando tu le punti il saldatore lui scalda e si dilatta e quindi si muove. Compra quella in batterite, che il prezzo è uguale, quella in batterite nera. Tutto batterite non è, una plastica molto dura che comunque regge molto di più alla saldatura. Cambiali lo saldatore perché ti può dare dei problemi. Ma è la femmina, la femmina dell'amplificatore. Ah, una femmina, allora da dentro Salvatore, poi si deve essere spostato praticamente l'ingresso del maschio, capito? Cerca di spostarlo poco questo maschio, lascialo fermo, se no tagliaglielo. E quindi lo devo smontare, me ne devo comprare un'altra di femmina. No, tanto vedi se si è un pochino, perché dietro c'è delle vitine che lo mantengono, quello che c'è era il maschio, la femmina è diversa. E praticamente quando tu avviti le vitine che lo tengono a supporto va a comprimere e dovrebbe rimanere fermo. Se questo non succede vuol dire che ha scaldato. Che ha scaldato e quindi vuole dissaldato e messo un po'. Li vendono anche le femmine, una fesseria a farlo. Lo dissaldi, lo togli e glielo metti nuovo. E allora mi sa faccio così, sì, deve aver scaldato, perché un giorno in particolare ho visto che, perché questo è un vecchio valvolare, questo amplificatore della CTE, sono 30 anni, però come modulazione mi è sempre piaciuto, perché dopo un po', dopo che scalda e carbura bene, c'è una modulazione che mi è sempre piaciuta, però probabilmente deve essere stato questo, sì, forse un fattore di temperatura. Un metodo della CTE che si chiama Speedy. Chiama HQ1313 come modello. HQ1313 non c'è scritto Speedy, no? Comunque è simile a quello della Speedy, la CTE, perché mi ha fatto pochi la CTE. Si ha scaldato, soprattutto ti consiglio di, perché può fare qualche falso contatto e essendo CRF negli amplificatori che appunto arrivano dalla nodica della valvola ti può creare problemi, capito? Quindi io preferisco sempre cambiare una fesseria, è come fare un PL maschio, la stessa cosa, apri l'alimentatore, stacca la corrente naturalmente e fallo raffreddare, possibilmente scarica anche i condensatori e poi lo dissaldi, hai visto come è fatto, dissaldi e lo rimetti com'era, lo compri nuovo, è molto molto meglio, perché basta un niente con la tensione che c'è lì ti può creare problemi anche alla radio, capito? È meglio cambiare quelle cose, io le avevo cambiate al mio lo stesso, che ce l'avevo tanti anni e ha scaldato parecchio. Ho provato a metterle la pasta di Fissan, come si mette ai bambini quando si scaldano, quando si riscaldano, capito? Però non gli ha fatto niente, allora ho dovuto cambiare il pisellino. Sto pensando di mettergli due gocce d'Attac per vedere se riuscivo a tenere, perché non lo uso, raramente, solo quando faccio i DX, però, e quindi il cavo io ogni volta lo infilo e lo tolgo. Stavo pensando di provare casomai con due gocce d'Attac per vedere se rimane fermo nella sua sede. Allora c'è Gianfranco, non so se è fattibile, io non l'ho mai fatto, però non vorrei che facesse l'induttore e non esce più quel PL. Gianfranco? Ci può provare, solo che, no. Vabbè, niente, la cosa importante comunque è che faccia contatto quando inserisci l'altro PL. l'altro poi relativa, si muove un po' tanto, non penso che sia decisione a staccare attaccato. Eh sì, perché è proprio il cilindretto bianco, capito? Come infilo il cavo nella femmina se ne torna indentro, e quindi l'ultima volta che stavo volevo fare un DX, ho visto che il cavo non si agganciava più da nessuna parte, ho guardato bene e la femmina se ne è entrata tutta. Adesso puoi cambiare tanto un attimo, lo smetti, ce ne mettono buono. Sì, no, segue il consiglio. Adesso il QRM si è sollevato a 6, Gianfra, lo superi di poco. Ma che apparecchio avete, perché anzi ci sovente? Io sto ascoltando questi sotto che mi stanno facendo la testa a cacco. Non c'ho neanche l'antenna per se posso apprezzare. Tu li senti Claudio, questi che stanno chiacchierando la mezz'ora? Sì, li sento, ma è talmente selettivo questo 430, adesso ho commutato 140, l'ho già usato tutta la sera, ho commutato al 430, però è molto, ma molto più selettivo, nel senso che proprio è a un filino di QRM, sento in sottofondo questi che parlano, invece prima li sentivo proprio con segnale pieno. E allora uso questo che è più, un pochino più sordo, diciamo, chiamiamo selettivo, ma secondo me è diventato mezzo sordo con l'età. Dovrei iniziare a fare la domanda all'amplifon a questo 430, se diventa, se le orecchie li si aprono. Io far che... Sì, datemi 2 minuti e vado a prendere il telefonino e vado giù la cucina, 2 minuti. No, il pacco te lo faccio io a te. Se non sali a spedirmi l'altro da quell'amico tuo lì, che io non riesco a mettermi in contatto, mi ha rotto, lo chiamo ogni giorno squilla questo telefono, ma deve essere morto in qualche cunetta. È esagerato, ragazzi. È esagerato. Ma quando ci hai chiamato? È una settimana che chiamo, mi avete dato il numero sbagliato, Sandri, cosa ne so io? Ho necessità di farlo controllare quello, immediatamente, ma subito, perché non lo posso vedere così. È lì fermo da una parte, ogni volta che me lo guarda mi ci vuole il colasson, capito? L'ho posso andare anche in garage via Pasqua, l'ho portato sulla scatola, tra l'altro mi sono preso anche la scatola di altra roba che avevo. Perché sto decidendo quel garage di affittarlo, intanto la moto non c'è più lì e quindi non ci fa niente così. E quindi mi sto portando via tutta la roba. E ho portato sulla scatola, infatti mi sono dimenticato l'altro giorno, ma sono venuto qua a dirtelo, se te lo portavi via, veramente, perché ho necessità di spedirlo, prova a contattarlo tu, cosa mi ti dica, lì ci va, devo mandarle un'altra radio, uguale a quella che gli avevo già mandato, ma tipo quella lì, dai, tipo quella lì, perché non l'ho mandato da lui, tipo quella lì. Ho ripreso. Scusate, ne approfitto, come vi avevo preannunciato vado a fare una carica, ci sentiamo dopo. Certo, siamo qua, quando vuoi, buona carica, buon tutto, salutissimi a casa, dopo. Ma passato, buona carica, buon tutto. Grazie a tutti, dai, ci sentiamo tra poco. Hai capito, Sandy? Ehi, va bene, dai, adesso vediamo in settimana, dai. Settimana proviamo a farci un colpo di pazza, ma comunque penso che non ci siano problemi, dai, no, qui all'anima, però considerando che adesso è periodo di ferie, senz'altro anche lui dovrà andare in ferie, comunque vediamo un po', un colpo di pazza, poi vediamo un po'. Grazie fratello, no, perché mi sono dimenticato l'altro giorno, siccome ne avevamo già parlato, mi sembra, no? E così vediamo un po'. Quella è una bestiolina, c'ha questo problemino, quando scalda si azzera il display tutto puntini e ciccia. È un difetto che hanno sempre con le radio, era riscontrato da tantissimi anni. Allora, se c'è un componente da cambiare, come ho fatto problema che ti sta tappando, Gianni. Addirittura Claudio non ti sente, sei in mezzo al QRM. Non lo so, non saprei cosa dire. Non saprei cosa dire. Vai Claudio, oh mamma mia, non me sto. Un attimo. Gianni Chiaramonti, mi è salito il QRM. Poc'anzi avevo ricezione molto bassa, quindi negativo a poter sentire. Adesso sono riuscito, diciamo, un po' a tirarti fuori. Gianni, non è che non ti volevo rispondere, è che si è salito QRM, quindi a momenti sono riuscito a tirarti fuori. Comunque signori, io ne approfitto per questione carica, saluto a tutti circolarmente e alle prossime. Va bene, ciao Sandro, buona carica, buon tutto, avanti Claudio. Ok, positivo, ciao Sandro, ciao anche Salvatore, l'ho già salutato, buona carica a tutti e due e ci sentiamo. Sì, anche per me Gianni, se mi stai ascoltando, non so cosa hai fatto, io vabbè, c'ho QRM, te l'ho detto l'altra sera, un pochino alto con il calare del sole, però prima ti ascoltavo Santiago 7, adesso si è messo il QRM, non so se hai fatto qualcosa, se hai staccato l'amplificatore, non so cosa dirti Gianni. Non è che non ti voglio rispondere, per carità di Dio, se mi ascolti, ma se non ti ascolto non so cosa farti, non lo so. Io quando ti ascolto ti rispondo sempre, il tuo segnale è 7, ma se non superi 7 è qua il QRM ti copre. Pappa dai, faccio la tramite di nuovo, ti sta salutando, lui chiude che c'ha il QRM al massimo, così sta chiudendo, dai. Ti saluta e saluta anche Sandro, dai. Ok, se mi ha salutato allora la più cordiale buonasera Gianni, magari ci sentiamo dopo se coincide, per il momento io non ti ascolto. Ciao, buonasera e buona carica anche a te, avanti Gianfra. Sì, buonasera, a noi con i Chiaramonti lì, io lo sentivo, non molto basso, però lo sentivo abbastanza chiaramente. Anche senza mettere l'attrezzo, lo schiano di palma, un amplificatore. Va bene, anche io ne approfitto, perché mi sto fermentando, io mi sto addormentando. Però ecco, l'altra. Quindi ne approfitto. Mi porto via il mio mal di gola, insieme a me, perché a quanto stanno se ne può andare. Noi ci vediamo, ci sentiamo domani alle prossime. Buona notte a tutti. Ciao ciao. Oh già fa, ora 144 quando lo fai, buon tutto vai qua. Ok. Ciao. Sono qua in QRX, se quando volete chiamate, anch'io devo fare un sono le 9, aspetto mia figlia che sta uscendo dal lavoro. D'accordo. Ok, allora ragazzi, sono qua, mi ascolto. Ciao Parogero, a dopo, ciao.